passa l'ascensore già. Prova, prova. Johnny, Johnny, sola. Ci sono. Oppa. Sì. Vai. L'ho preso te io, Giova, ho provato il torso, li puoi dare adesso. Via. Ok, è arrivata. Ora. Dovrebbe essere tarato. Chiudiamo la chiusura, Gio. C'è quel cosa che abbiamo tarato il primo, che forse sta andando per i fatti suoi. Aspetta che verifico se effettivamente chiude. Ritaro il fine corsa di posizione. Scusate, io seguiamo un pochino più di sotto. Tarata, Giova, mi sembra che in corsa seguano la manovra. Fatto, Gio, la proviamo, la manovra completa. Adesso è chiusa. In apertura ti direi di no. Sì. Va bene. Neanche in chiusura torna, Gio. Gli esuiti sono entrambi intervenuti. Sì, si potrebbe trovare dalla sala manovra. Se ce lo fanno, Giova, ce ne andiamo sicuri e tranquilli. Sì. Vabbè, la proveremo domani, magari domani no, quando necessario. No, c'è qualcosa che non mi convince, però. Tipo anche se non ha impegnato il fine corsa di torchio per l'avrei voluto vedere un po' spingere. No, Giova, non l'ho visto ruotare. Lo vedo ruotare, non lo vedo dal volantino, allora lo vedo lavorare, lo vedo ruotare. Se poi è un arresto per fine corsa, chiusura non se ne sarà una cosa normale. Fermo, lavora nel ritorno. Adesso la staro, Giova. Allora, spostarmelo qui, non è la fiore. Ok, Giova, potete. Si è fermata, Johnny. Guarda, Giova, è intervenuto, ma io non ho visto lavorare il bilanciere del torchio. A questo punto la tariamo. E poi bisogna provarla. Adesso dovrebbe essere intervenuto il WSR, che è una che ho visto lavorare. Va bene, è fermata, non può che essere intervenuto lo switch, se magari pressione. Riposiziono il VSR. Va bene, se la rimetti in posizione intermedia li staro tutti e due. Sarà, Giovanni? Sì, è stato in fine corso. Puoi provare a riaprirla e poi provare a richiuderla. Adesso ha torchiato, Giovanni, alla grande. Va bene. Adesso gli posiziono in fine corsa, va bene? Va bene. Ok. Per me è aperta. E si è aperta e ha fatto la manovra. Chiudiamo. Adesso ha torchiato, adesso può tornare in fine corsa. Gio, facciamo una manovra di prova. Stato sul motore di crescita, se mi può procedere la sequenza di successo. Chiusura, secondo me, va aperta. Ok, Giova, ha torchiato. Potrebbe non essere partito, dovevo anticipare. E la segnalazione di chiusura. Quello che secondo me è stato in ritardo è quello. così. Che questo è scarico, come sta caricando? Io sono sempre scarico. Ehi, non c'è nessuno di là, mi sa di lì. E tu sentendomi sì. Alla borsetta pigliani, alla borsetta. Per carità di Dio, ce l'abbiamo mangiato, ci ho portatile. Ce l'ha comparato per rompere le balle, era niente che... Ah, io sono le portatili, non ha né i sittuni, i portatili qua. Qui sono una radio grossa. Ah, arriva basso basso qua, lui, allora vuol dire vicino a te. Tanto che piglia di giro a Graziano e sente parolacce, ma che non ti impicchi? Ma sarà che non vedi il paio a finta di russa. Ciao Claudio, ben sentito. Ciao, grazie. Perché li fate entrare voi? Basta ignorare la certa gente. Mi dispiace dirvelo, ma si sta sporcando anche qua, eh. Mi dispiace, io vi ascolto, ma c'è molta gente che vale meno di zero. Cosa vuoi fare? Basta lasciarli cantare. E tu lì, ma con i razzi in dentro. Intanto, è sempre il suggercalino, mi ha dato la saluddicchio. Io non sono presente qua, se no l'uddicchio ve l'avevo fatta assare io, beh. Ma beh, ve l'avevo fatta assare l'uddicchio. Adesso mi ha acceso la 27 e parlo nella 27. Dice, non chiudo e non me ne ha tutti nulla. Intanto vengono anche lì a rompere le palle. E già ho visto ogni tanto vengono anche lì a disturbarci. E vabbè, tanto grazie a tutto molto, Emi. Non vi è rimasto più nulla. Ciao Lucarie. Ciao, grazie, dai, che mi guardo un po' di TV. Se c'è qualcuno ascolto e basta. Tanto non ne vale più la pena nemmeno a arrabbiarsi. Ciao, ciao, ciao. Ciao Claudia, alla prossima. Ce la risentiamo, vai Lu. E mi sto preparando, mi dico, Vicendi, così stasera io una bella birretta me la bevo, forse anche due. Vitini tre, lui, una faccia mia, se ci sei domani mattina faccio un salto a Lello a prendermi il caffè. Allora, domani mattina, penso di sì, se non credo così, verso le 10:30 così, massimo 11 ci sono. E non presto. Se esco già ti faccio lo squillo, dai, ti avviso che sono lì, ok? Ci sentiamo ragazzi, divertitevela. E ti tagliente, non la vedi manca entrare, fa vedere di sopra, tanto, vale meno di zero. E ludando! Claudio, è stato pure si pone Luigi Carino, non si fa giunta. Se vogliamo parlare, io lo basso, c'è molto timore. Ho capito, ma non va bene perché ascolta, ci sia questa gente che dice parolacce. Capito? È brutto anche perché ci sono un sacco di bambini in questa frequenza, quindi si deve solo vergognare. Vabbè, ciao, ciao, ciao. Ciao. sto voltando a Ponente. Avanti, chi è questo portante? Sento, Graziano, se mi ascolti. Ma chi sei? Tu sei? Sordo, Ma chi sei? Ciao, ma chi? Chi sei? Mi senti? Ciao, Luca, buonasera. Buonasera anche agli altri che stanno ascoltando. Mi sembra che sia Marino. Marino? No, è Giulio, Giulio c'è anche. Buonasera anche a lui. Ciao, Bacchisio. Chi c'è su questo canale? Sento a te e basta. Non ho capito oggi, cosa hai detto? Ho detto che sento a te e basta. Chi c'è poi? Grazie, fammi la ponte. Bacchisio, ma dove sei? Come mai non mi senti? Basso ti sento, non so perché. Basso. Avanti ancora a vedere un po'. Ma c'è una portante anche, a me mi sembra che c'è anche una portante, Non sto uscendo allora, Giulio. Sì che sto uscendo, tu stai uscendo, già ti sento bene io a te. Io ti sento benissimo. Luca, avanti. Ria. C'è poco fa c'era una portante qua. Cosa vuoi fare? La portante adesso stanno prendendo il gusto di giocarsi anche qua. Ma basta dargli una verghetta e si giocano con la verghetta. Sì, vabbè, non vale più la candela a rimanere qua a stare lì a dirgli cose. Non vale la candela. Da parte mia, guarda, credimi. Tanto tra un po' sto per uscire. No, ma non ne vale la pena da dirarsi. Non ne vale la pena. Ui, basta lasciarli cantare, e farli cucinare nel loro brodo. Ma infatti. Avanti, dottor Giulio. Ma non sento con chi stai parlando, con Luca stai parlando, non lo sento. Sì, con Luca stavo parlando, con Luca, non lo senti a Luca? Luca del Monte. Sì, a Luca del Monte, ma vicino qua a casa, tra me e di cosa, Graziano. Ah, ho capito, ma ieri lo sentivo benissimo, oggi non lo sento per niente. Ma tu come mai mi senti basso? Io ti sentivo più squillante. Sempre nelle stesse condizioni. Non ci sono problemi. Per cui non capisco come mai. Qualche cosa. Il vento magari giù, che ti porta via la voce. Ahia. E cosa vuoi? Cosa sia come ti sei piazzato? Magari si è spostato di qualche centimetro, qualche metro, è roba varia. E quello lì, come ieri ho sentito Marino, dove ha messo l'antenna adesso, appoggiata sul parapetto del terrazzo. Ieri notte ho sentito Marino. Non lo so, io sono sempre nella solita posizione qua, per cui dovrebbe andare bene. Non lo so, ma chi, cosa vuoi che dica? Vediamo, mi sposto un attimo. Vediamo, adesso mi sono spostato di un metro e mezzo, dai. Giulio, mi senti? Vai Luca, l'ho ascoltata da Giulio? Sì, io non lo sento, e lui non lo sente a me. Giulio non lo senti a Luca, lui ti sente. Ma non lo sento io a lui, per niente, lui per niente. Non ti sente per nulla. Nulla. Non so perché. Forse non ho messo carta carbone nuova, Giulio. Ma la porta aperta ce l'ha Luca, perché mi sa che ha la porta chiusa a me. E Graziano, non c'era Graziano anche qua? Non lo so, ma chi? Io sono entrato adesso, non lo so chi c'era, infatti ti ho chiesto con chi stavi parlando, per quel motivo, perché non lo so. Con Luca stavo parlando, con Luca. Pensavo c'era anche Marino, invece Marino non c'è, capito? Non c'è, Tore Pinna di Squalo non c'è. Non so cosa dirti. Ma io ti sento benissimo, ti sento anche meglio di ieri. È strano che tu riesci a sentirmi basso basso. Adesso ti sei modificato un po'. Da quando ti sei spostato ti sento molto più chiaro. Ah, così è, allora la posizione... Boh, eppure sono sempre al centro del letto qua, proprio... Sempre nella solita posizione, non capisco, non balchi. Dillo a me, perché è così. Luca deve essere, si è spostato di camera da ieri a oggi, perché se non lo senti, ieri lo sentivi, oggi no. Luca, sempre allo stesso punto, sì. Ma adesso mi sto spostando verso la camera da letto, vediamo un po', Giulio mi senti? Luca, adesso ti ho sentito a tratti però, ti ho sentito a tratti adesso. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, mi senti? Adesso è perfetta, perfettissima adesso. Radio 5 a bomba. Perché sono praticamente dalla parte tua, dai, dove c'è Graziano, di fronte a Graziano sono. Ho capito, sì, no, adesso ti sento molto molto bene. Come Pacchisio, uguale, allo stesso modo. Anche io ti ascolto bene, dai, non c'è problema. Anche tu arrivi a bomba, ma arrivi anche nell'altra camera, un po' disturbato ma già arrivi. Avanti, ma chi? Riprendi tu che io mi sto quasi per finire, dai, metto giù un botto, esco. Benissimo, Lu, va bene, adesso sentiamo allora, vai. Già siamo qua, quando stai uscendo ti salutiamo. E così Giulio, e Marino non si sente, accendeva stasera, boh, nulla. A quelli come i cucchi accende la notte tardi. Lui è così. Lui se non sono le 8 non accende. E cosa ci vuoi fare? Ma chi sono andato a lavarmi la macchina da quella terra che ha piovuto e c'erano 15 macchine, tutte in fila, per il lavaggio. Due volte sono dovuto andare, perché la prima volta sono andato, ho visto che c'erano troppe macchine, c'erano. Allora me ne sono andato in giro. Sono ritornato dopo un'oretta, peggio che mai. Allora mi sono messo in fila, mi sono messo e gli ho dato una lavatina, tanto per togliere solo la terra sopra. Poi a pulirla bene, a caso mai ci penso domani. Ma oggi era da lavare la macchina, io l'ho lavata stasera, ma si piantava le patate, nascevano le patate, c'era poco di fango sopra, il sugo. Poi non era fango, era sabbia rossa. Infatti è quella sabbia allora, quella terra rossa, chissà da dove è arrivata qua, quella di ieri, dai, ha sporcato tutte le macchine. Infatti, cioè, se lo sto dicendo, il lavagista, ci sono tre tunnel, ci sono, e poi c'è il tunnel dello spazzolone, in tutto quattro cose, e c'era la fila dappertutto. Se ti sto dicendo, quando sono arrivato io c'erano 15 macchine prima di me. Non l'avrei fatta la fila per 15 macchine, manco qua sogno. I lavagisti oggi sono stati proprio fortunati, hanno fatto i soldi a palate, perché tutti l'hanno provato a lavare perché non si vedeva un H da fuori, i vetri erano sporchi, la carrozzeria era sporca, era una vergogna avere la macchina così, e dunque il lavaggio non se la fa, però come dici tu, molta gente fa la fila, no? Non è giusto. Vai veloce, dammi una sciacquata e vattene. Così ho fatto io. Gli ho dato una sciacquata veloce e me ne sono andato. Non ne ho nemmeno asciugato, intanto magari domani piove anche. Però non si vedeva più nemmeno ai vetri, erano troppo zozzi, erano troppo sporchi, per cui io sono stato per forza costretto a dargli una pulitina così alla bella meglio. Anche vergogna sedersi in macchina, era com'era? Sembrava una macchina di un pastore, tutta piena di malassorti, di fango. No, bisogna pulirla. E infatti, sembrava una di quelle macchine parcheggiate dove lavora il caterpillar che muovono la terra, la cosa, no, con la ruspa, eccetera. Sembrava una macchina di quelle così. Boh, vabbè, adesso è fatta, là. Ho tanto tempo, a me già non mi manca, per cui mi sono acceso la radio e ho aspettato quando era il mio turno, solo che c'era qualche deficiente che lo faceva anche apposta a stare più del tanto. Cosa ci vuole? Dai, non ho passato il volante a battere, vedi che c'è un sacco di gente, nulla, ci sono gli imbecilli nella vita, ci sono sempre. Sì, clienti non mancano mai, a qualsiasi parte che tu giri lo trovi, quello c'è sempre, non manca mai. E cosa vuoi fare? Bisogna anche sopportarli, avere pazienza, e se no prendi la calcina e sedere. Figurati, se io cosa vuoi che me ne frega, non ti sembra che mi metto a bisticciare, ma nemmeno per idea. Caspitina. Signori, si nasce, ma chi? Non ci si diventa, signori, si nasce. Ehi, quello è giusto. Quello è giusto. È sempre stato quel proverbio di così. Signori, si nasce, signori, non si diventa. E poi è questo il fatto. Adesso sono tutti signori. Dico, signori maleducati, però. Purtroppo è così. Ma non entra nessuno stasera, porca miseria. Sul 10 non c'era nessuno, sul 23 non c'era nessuno. Ho acceso qua e ho appena sentito a te, avevo sentito. Cosa vuoi che ti dica? No, non c'è più niente, no, non c'è più voglia di parlare alla radio. Scatole, giù, e ti dà fastidio. L'altra sera in VMR, da Grattugia, non riuscivo a capire niente, ed era qua vicino a me, perché da Graziano non si sentiva, da Luca non si sentiva, io la sentivo che non copriva tutti, era in macchina quello lì. No, io ancora non ho sentito questa specie di deficiente, no, non l'ho ancora sentito, e disturba molto. Copre tutto, a me mi copriva tutti, a Graziano lo copriva, a Luca lo copriva, a Marino lo copriva, a Tore lo copriva, non sentivo niente, alla fine ho chiuso, ho detto va a farsi un brodo. Allora vuol dire che era lì nei paraggi tuoi, nella zona era sicuramente, se copriva anche a Marino, se copriva a tutti, vuol dire che era lì, nei dintorni di casa tua, in quella zona insomma. Ciao Giulio. Portati da sotto casa, ma era in macchina senz'altro, perché faceva la gratuita, chissà dopo che cavolo fregava, o fregava sul microfono, o fregava in qualche roba bucata, perché faceva un rumore strano. Sì, certo che ne ha guadagnato molto lui, quando ha fatto lo stupido in quel modo, per carità. E speriamo che sia l'unica soddisfazione che può avere di disturbare la gente nella vita. Vedi, imbecilli, ma non è possibile, ma chi? Non si smette mai, caspita, di trovare queste persone qua. Sì, ma non so che gusto ci prendono, non ho capito. Per rompere le scatole agli altri. E cosa hai comprato a fare sta radio? Per rompere le scatole. Vai, buttacela a mare e via. E fatti un brodino, fatti. Non è una cosa, quello vuol dire non paga né tasse, non paga nulla, e la radio anche di quelle da 4 soldi prese a seconda mano, senza pagare. Vabbè dai, io vi saluto, Bacchi, ciao anche a Giulio, buona serata, dai, alla prossima. A fregatevi, quando fanno così chiudete, ciao. E ciao Luca, buona serata, buona passeggiata, ci sentiamo domani se tutto coincide. Benissimo, a Giulio vai. Ok, ciao Luca, alle prossime dai, ci sentiamo, e purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? Sono finiti i bei tempi della radio, Bacchi, purtroppo, in 27 lo stesso, non c'è più nessuno, non si sente più nessuno, io la sera accendo sempre da presto, facendo e metto a volume alto, no? E me ne scendo nella sala, e intanto se c'è qualcuno già lo sento. E mi accendo il computer, mi accendo oppure la televisione e guardo magari qualche film oppure qualche partita se ci sono partite eccetera, ma la gente ho visto che non ha più voglia, non c'è più voglia, e quando trovo gente voglia anche di accenderlo, capito? Dice, per ascoltare quattro fesserie e qualche porcheria che dice quello lì, lascialo spento per la notte, perché certe sere parlano con dialetto loro e fanno proprio schifo ascoltarli, e non si sa mai chi è, non si è mai presentata la persona e non si presenterà mai, sarà sempre anonimato. Ah, sicuramente sì, figurati se presenza. Ui, ui, ui, quanta gente mentecata che c'è, caspita, non è possibile. Purtroppo così. Beh, prima rimanevo qua, rimanevo vicino alla radio sempre e in attesa che entrasse qualcuno, poi ho fatto, ma chi me lo fa fare a stare tutta la sera qua? Allora cosa faccio? Sacco, accendo, controllo se c'è qualcuno, non c'è nessuno, e allora me ne scendo giù. Accendo il computer e alle volte ci sto anche tutta la sera attaccato al computer in attesa di sentire qualcuno nella radio, e se non sento nessuno chiaramente, ma almeno se non altro lo faccio scaldare tutto lì o ma chi? Va bene, scaldano un po', cioè fa bene farli scaldare, se no guaio, se si bloccano, è così. Ma io sto pensando, c'era Graziano poco fa, che fine ha fatto? Boh, io non l'ho sentito, per cui no, non lo so. Ieri a Graziano gli ho mandato un messaggio, gli auguri di Berlusconi gli ho mandato. Dalla letto, era tardi, le 10 sono state, ieri notte, dai. Ma ho visto che già l'ha letto subito. 27 sono, Gio Maria e cosa giù. E sono i 27. Ah, i 27 sono. Ah, ecco. No, perché poc'anzi io avevo controllato, prima sul 10 e non c'era nessuno. Poi sul 23 e non c'era nessuno. Allora ho acceso qua e ho sentito a te. Andiamo in 27 giù, che ci sono anche loro lì, così facciamo un giro più grande. Va bene, dai, andiamo lì, dai, al 27. Era stato questo, lo lascio acceso, vado in 27. Ok, anch'io lo lascio acceso questo, dai, e vado in 27, tanto se non c'è nessun altro, allora andiamo lì. Avanti, Bacchisio, pressione Bacchisio, pressione Bacchisio, Bacchisio, pressione Bacchisio, cambio. Dimmi Marino, mi ascolti? Bacchisio, ti sento leggero, però ho collegato l'altra antenna, la negativa ho collegato, con la tua negativa non ti sento, modula un pochino. E a Ponte Scala, sì, mi sei sotto casa parlando. Sto utilizzando la negativa, con la tua negativa, non ti ascolto, faccio un'altra prova con la tua, dai. Prova a vedere un po' con la mia se mi ascolti, io ce l'ho buttata sul terrazzo. Adesso ho collegato la direttiva, collegato. Adesso collego la tua, perché con la tua gli altri tutto ok. Solo a te che non ci sentiamo. Mi collego l'altra, dai. Sì, dai, che poi chiamo. La chiesa avanti, pressione la chiesa. Avanti la chiesa, mi senti adesso? Sì, io che ti sento, avanti. Aspetta, sto parlando in cose, che è vero. Avanti Mari, prova. Negativo, sono dentro casa e sto utilizzando l'antenna che c'ho sul tetto e la tua negativo neanche un segnale mira la tua e poc'anzi ti stavo parlando con la direttiva, ti stavo parlando, però ti ascolto molto a QRM, sei in mezzo a QRM, capito? Mi senti in mezzo a QRM? Sì, sì, adesso ti ho sentito ancora di più per la commemorazione, poi c'è molto a QRM, ti porti avanti. Sì, no, mi sono avvicinato di più la radio alla bocca. E io come ti arrivo? Come Marì? Poc'anzi come mi dicevi, bene? È bene, proprio a Fondo Scala. Non lo so, la modulazione è chiarissima, so è tipo di QRM, QRM. Ok, io chiudo questo passaggio, là, così adesso, entro 27, saluto e chiudo, che mi stavano chiamando. Ok, ma chi? Ci sentiamo domani, dai. Io Marina, domani, dai, così risentiamo la sorte. Bene, me da in 23, passa sul 27. Esatto, passa al 27, dai.